pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati dovunque sei. Se mi cercherai sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano a mani vuote e con le stesse scarpe camminare e andare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non son più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre mi troverai.